batteria. Batterie per qualsiasi esigenza. Auto, moto, nautica, veicoli industriali ed elettrici. Garantite 3 anni. Montaggio gratuito. Su richiesta, installazione a domicilio. La casa della batteria. A Sassari, via Duca degli Abruzzi 52. Specialisti nell'energia. Questa qua, dico, la mia è un po' più pesantina,